Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi andiamo in onda da Cernobbio, dove ha preso il via il secondo forum di Conftrasporto e Confcommercio, una due giorni dedicata ai temi della logistica, dei trasporti, delle infrastrutture, della mobilità. Un'occasione di riflessione e di proposta di fronte alle prospettive di un comparto dal quale dipende una parte significativa delle chance di ripresa del nostro paese. I lavori sono stati aperti dalla conferenza stampa del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e del presidente di Conftrasporto Paolo Uggè, che abbiamo intervistato poco fa. Ascoltiamo. La logistica è elemento fondamentale di sviluppo. Purtroppo nel nostro paese non si è realizzata in questi anni una sensibilità su quanto sia importante la logistica per lo sviluppo economico di un paese come il nostro. Questo che cosa ha creato? Beh, ha creato che l'Italia cresce poco, rischia la marginalizzazione dei mercati europei. Se noi avessimo una logistica simile a quella che esiste in Germania, noi avremmo un aumento del PIL di 34 miliardi all'anno. Il che non è poco. Abbiamo una dotazione infrastrutturale che non ci avvicina ai grandi corridoi europei. Perché? Perché non siamo interconnessi. Abbiamo un cuscinetto nel centro del paese che impedisce al sud di agganciarsi a quelli che sono i prodotti e la possibilità di far arrivare questi prodotti nei mercati europei, e quindi anche questo contribuisce a impoverire il sud stesso. Autotrasporto. Beh, l'autotrasporto subisce una concorrenza spietata da parte dei paesi dell'est, no? Abbiamo i bulgari che hanno un costo del personale che si aggira intorno ai 200 euro al mese, quando noi abbiamo un costo che è intorno ai 3.000 euro al mese per autista. Beh, è evidente che questo non si può competere. E la presenza dei paesi dell'est, che hanno questa condizione favorevole, ha prodotto questo dato. I paesi dell'est, le merci che entrano in Italia sono aumentati del 700%. L'Italia aveva una quota di mercato delle merci che entrano in Italia del 32%, oggi siamo al 12%. Ma questo fenomeno non riguarda solo l'Italia. Anche la Germania, nelle merci che entrano in Italia, aveva una quota significativa, ha perso il 48%, la Francia ha perso il 66%. Questo cosa dimostra? Dimostra che o si interviene a creare una situazione di equilibrio o i paesi dell'est ci mangiano tutti, ma non solo noi italiani, ma l'intera Europa. Tanto vero, e anche qui il ministro Del Rio ha fatto bene a scrivere una lettera insieme ai paesi della vecchia Europa chiedendo che si affronti rapidamente il tema del dumping sociale. Però queste cose o le facciamo in fretta o alla fine, quando ci muoveremo, ormai siamo morti. E quindi la crisi dell'autotrasporto è evidente sempre di più, perché poi questo cosa produce? Che molte imprese, per poter restare sul mercato, diventano esse stesse imprese estere. In pochi secondi, ponte sullo stretto. Noi siamo favorevoli, perché il ponte sullo stretto era una scelta europea, non italiana. Era nei quattro corridoi che si dovevano realizzare più rapidamente possibile, dava a un popolo come la Sicilia la possibilità di essere la piattaforma più avanzata nel Mediterraneo. Per lo sviluppo della logistica nazionale, e quindi anche per attrarre le rotte mondiali delle merci, il rilancio dell'intermodalità è dunque un elemento decisivo. Un sistema basato sull'integrazione e l'interconnessione tra le varie modalità di trasporto rappresenta anche un passo avanti significativo sul fronte della sostenibilità. In questa direzione vanno gli incentivi previsti dalla legge di stabilità a favore degli autotrasportatori che saliranno con i loro mezzi sui treni o sulle navi. I decreti attuativi del ferro bonus e del mare bonus dovrebbero essere varati a breve, manca solo l'ok definitivo di Bruxelles. Oggi ci concentriamo sull'intermodalità gomma-ferro, partendo da un dato che caratterizza l'Italia in negativo rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Oggi la quota di merci che viaggiano sui binari, infatti, non supera il 7%. Ne abbiamo parlato con Guido Porta, vicepresidente di Fercargo, l'associazione delle imprese ferroviarie private che operano nel settore del trasporto merci. Ascoltiamo anche questa intervista. Io credo che con le modifiche infrastrutturali che il governo ci ha promesso riusciremo a fare un'inversione di tendenza. L'obiettivo è di arrivare al 2030 al 30%, non è facilmente raggiungibile, però ci stiamo lavorando tutti. Treni più pesanti e più lunghi consentono di fare efficienza. La sagoma 4 metri, di essere più efficienti rispetto al naturale competitor che è il camion, ma non il camion in senso autotrasportatore, in senso proprio come modalità. Perché la sfida poi in realtà non è un conflitto tra le varie modalità, ma è l'intermodalità. Un'integrazione fra le varie modalità in modo che il camion, camionista, l'autotrasportatore, l'impresa di spedizioni che mantiene il rapporto col cliente sceglie di usare per un certo tratto non l'autostrada ma il treno. L'autotrasportatore salire sulla nave lo vede come un vantaggio, sul treno lo vede come una complessità. Nel futuro proprio questo è l'obiettivo, far salire sul treno per tratti di un certo tipo e poi l'azienda, l'operatore logistico può anche scegliere il treno su modalità di un certo tipo, ma in quel caso con dei volumi di un certo peso. È necessaria una rete di raccordi o una serie di raccordi adeguati, perché poi il problema spesso c'è la linea ma poi non c'è la possibilità di far avvicinare i camion. Secondo me è importante creare dei sistemi di trasbordo strada, ferrovia molto snelli e diciamo distribuiti sul territorio. L'interporto, per come è oggi, un'area a sé stante dalla rete ferroviaria e spesso anche costruito in aree non servite bene dall'autostrada, è un punto che necessariamente non crea efficienza. E parliamo ora di sicurezza. Questa volta ci riferiamo alle condizioni nelle quali le merci e i mezzi che le trasportano viaggiano, in particolare quando si avvicinano alle città. Di questi tempi la prima cosa che viene in mente è la minaccia terroristica, ma non c'è solo quella. La sicurezza riguarda anche i carichi di sostanze pericolose che per necessità devono entrare nei centri urbani. Per innalzare gli standard di sicurezza, Wirnet, la società del Ministero dei Trasporti che ha costruito la prima piattaforma logistica digitale nazionale, ha presentato un progetto. Ci spiega meglio di che cosa si tratta Rodolfo De Dominicis, presidente di Wirnet. Cosa proponiamo noi? Mettere a punto degli anelli virtuali informatici all'esterno, diciamo, delle grandi aree interne delle città metropolitane, dotate di varchi, una certa quantità di varchi, che permettono l'identificazione dei mezzi che passano attraverso i varchi. Questa identificazione è automatica, nel senso che non viene compresso il business, il tempo di distribuzione non viene assolutamente toccato, ma può essere fermato qualcuno che entra senza essere autorizzato. Contemporaneamente questo tipo di sistema può essere utilizzato, deve essere utilizzato. A Milano già stanno cominciando a farlo per la questione delle merci pericolose, perché una volta che un mezzo riconosciuto passa il varco, poi gli viene assegnato un percorso diciamo che minimizza il rischio, nel senso che se il mezzo porta un materiale pericoloso, questo mezzo non potrà passare davanti a scuole, ospedali, carceri, edifici pubblici in generale. Ma sentiamo a che punto è la piattaforma logistica digitale. La piattaforma è completamente definita, è stata collaudata nel 2015 e migrata a cura di Hewlett Packard Enterprise, che in questo momento è gestore provvisorio presso il cloud del Ministero delle Infrastrutture. È di proprietà del Ministero ed è nella sua completa disponibilità. Per quanto riguarda la gestione definitiva per 20 anni, sono in corso gli ultimi lavori, diciamo così, per sistemare la pratica del gestore definitivo. Il mercato dei veicoli industriali conferma e rafforza ulteriormente la tendenza positiva. A settembre le immatricolazioni sono aumentate del 57,9%. Nei primi 9 mesi del 2016 l'incremento è stato del 40%. Bene anche il mercato di rimorchi e semirimorchi, con un aumento del 34,6%. Dati estremamente significativi che, va detto, giungono dopo anni terribili contrassegnati da un crollo verticale delle immatricolazioni. A renderli noti è UNRAE, l'Unione Rappresentanti Veicoli Esteri, secondo la quale il brillante andamento del mercato dei veicoli industriali va sostenuto confermando il superammortamento del 140%. Il pacchetto Industria 4.0 annunciato a settembre dal governo invece prevede una riduzione. Questa puntata finisce qui. Oggi siamo andati in onda da Cernobbio, dove è in corso il secondo forum di Confcommercio e Conftrasporto dedicato alla logistica e ai trasporti. Grazie per l'attenzione con hashtag Autotrasporti. Ci risentiamo lunedì alle 13.45 da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.